Posso sbagliarmi, ma non mi sembra che negli anni scorsi, in occasione dell'anniversario delle cinque giornate, quello che si è concluso ieri, sulla nostra città sventolassero tante bandiere milanesi. Sapete, quelle bianche con la croce rossa che si vedono in giro da un po'. A quello che ricordo, oltre al solito tricolore sugli edifici pubblici, come in tutte le pubbliche ricorrenze, in giro si vedevano soltanto dei guidoncini triangolari sui mezzi della TM. Delle bandierine di fantasia che uniscono, come avete notato, la croce rossa su argento del comune di Milano con la vipera dei Visconti. Chiamiamola pure vipera, come fa Dante, e non biscione come quello di Berlusconi, è più riguardoso, no? E quindi, richiamandosi alla storia complessiva della città senza riferirsi espressamente a un'istituzione, potevano essere considerate abbastanza innocue. Molto meno innocue di questi tempi preelettorali e di propaganda secessionista in chiave preelettorale mi sono sembrate le bandierone civiche che adornavano nei cinque giorni passati le scuole, gli edifici comunali e l'obelisco di Porta Vittoria. Ma forse esagero, e in fondo quella della cinque giornate è una ricorrenza civica per eccellenza, è giusto e forse è giusto che sia celebrata sventolando ed esponendo delle bandiere civiche. Che al governo della città ci sia ancora per poco una forza politica che nasconde dietro a un civismo esasperato la propria incapacità di governare alcunché, può essere una coincidenza. Naturalmente, nel fatto che chi governa a qualsiasi livello cerchi di servirsi dei pubblici anniversari per portare avanti i propri progetti privati, boh, non c'è niente di straordinario. I pubblici anniversari sono considerati tali in teoria per la loro capacità di rappresentare un valore in cui tutta la comunità si possa riconoscere, ma in pratica basta poco per fargli dire qualsiasi cosa, a favore o contro qualsiasi progetto. Ricordo che quando frequentavo le scuole primarie, con le cinque giornate mi facevano un mazzo così, in una dimensione rigidamente patriottica, con i buoni italiani che insorgevano contro gli austriaci cattivi e ne facevano salsiccia, perché all'epoca la lettura corrente del Risorgimento era quella, e qualcuno evidentemente pensava che ai bambini non bisognasse complicare le idee raccontando di come anche tra i buoni italiani ci fosse qualche interessante contrasto di vedute, nel senso che il podestà Casati non poteva sopportare il Cattaneo e viceversa, e il massimo problema della dirigenza civica, una volta cacciati gli austriaci cattivi, fu quello di trovare qualcun altro che ne prendesse il posto più in fretta possibile per impedire che gli insorti si facessero troppe idee, onde l'idea di consegnare la città a Carlo Alberto, che al popolo milanese piacque così poco che quando tornarono gli austriaci un anno dopo la battaglia di Novara, non li accolsero mica neanche tanto male. A confronto di quella interpretazione, la lettura, diciamo così, leghista, che vede nelle cinque giornate un'espressione di una volontà autonomista di ribellione al potere centrale, è quasi un'operazione storica raffinata. Naturalmente, per farla funzionare bisogna evitare accuratamente di specificare che il potere centrale contro cui i milanesi obiettavano era quello piemontese, non quello romano, che non era stato ancora inventato. Il che significa che quelle vecchie polemiche non hanno proprio niente a che fare con le nostre attuali, ma queste sono futilità a cui non bada nessuno. E poi in fondo Piemonte allora si chiamava Regno di Sardegna, il che vuol dire che un po' terroni erano anche loro. Personalmente, se qualcuno mi chiedesse di esprimere la mia opinione sulle cinque giornate, direi che hanno rappresentato uno dei pochissimi momenti veramente popolari di tutto il Risorgimento. Come spesso capita, le manifestazioni di volontà, oggi diremmo di base, si sono risolte in un discreto fallimento, nel senso che il popolo vincitore è stato prontamente espropriato dai risultati della sua vittoria e rimandato nell'angolo, mentre al governo della città si insediavano mutate coccarde e livree gli stessi che c'erano già sotto gli austriaci. Da questo punto di vista, come episodio, è un episodio veramente esemplare, ma è difficile che simili esemplarità assurgano una dimensione pubblica. Bisogna cercare di ricordarsene privatamente.